And like me, he's very frustrated by that, and he decides that it'd be much better if he had some of these works of art so that he could look at them in his home. Eccoci qua, appassionati di arte uno dietro l'altro, e anche questo Mackenzie, un bel cognome appunto ancora una volta scozzese, visto che di Scozia stiamo parlando, anzi siamo a Edinburgh. Cosa succede? Gli piace l'arte e gli dà proprio fastidio che cosa? Che questa, a lot of art is kept in storage. Questa è una cosa che è verissima ed vale per tutti i musei. Spesso i musei hanno queste warehouses, quindi questi depositi, questi magazzini letteralmente, dove l'art is kept in storage, cioè dove l'arte viene parcheggiata lì, le opere d'arte, perché non c'è abbastanza spazio nelle gallerie. In generale i musei, chi magari li visita frequentemente, vede che alcune parti cambiano perché si cerca di far rotare questi quadri, ma il fatto è che the public aren't allowed to see it. Ciò che è kept in storage non lo possiamo vedere. E tutto questo crea una grande frustrazione, e lo scrittore, in maniera anche piuttosto buffa, dice: questo protagonista è deluso e frustrato come me. Like me, he's very frustrated. Qui notiamo l'uso di quello che può essere abbastanza un false friend, cioè lui spiega didn't have space in the actual gallery to display. Actual naturalmente non è l'attuale, ma la vera galleria, quindi la National Gallery nei suoi veri spazi non aveva spazio, per l'appunto, e quindi people get very frustrated sapendo che questi works of art sono in un magazzino da qualche parte e nessuno li può vedere. Conclusione la palissiana, allora cosa decide di fare? E allora, scusatemi, se non li potete far vedere, preferisco che me li mettiate in casa mia, o meglio che io me li prenda così me li posso vedere. Cioè, if he had, questo personaggio dice, caspita, if he had some of these works of art, qui naturalmente sappiamo che loro non hanno il congiuntivo, quindi usano il passato, perciò se lui avesse o avesse avuto alcune di queste opere d'arte, he could look at them in his home, avrebbe potuto guardarsele, godersele, osservarsele a casa sua. Sì, bello. Poco ma sicuro, it would be much better. It would be much better. Sarebbe molto meglio. Tutto questo accade in Un colpo perfetto, ma il nostro scrittore ha solitamente un personaggio preferito, un poliziotto dal nome molto buffo che ci svelerà tra poco se non avete mai letto un romanzo di Rankin. Ma in questo libro, in questo colpo perfetto, lui non c'è. Perché? Cosa gli è successo? Tornerà? Sentiamo. John Rebus has retired, but he is still working for the police as a civilian. So I know exactly what he's doing. So he's not dead. He's still inside my head. And there is the possibility that he can return in the future. But meantime, I'm enjoying exploring Edinburgh through the eyes of different characters. Because Rebus had a very particular way of seeing Edinburgh. For him, it was just a crime scene, and then another crime scene, and then another crime scene. So it was nice in the new book to write about characters who are living in a different kind of Edinburgh, or who have a different perspective on Edinburgh. John Rebus, mi piace tantissimo questo nome, questo Giovanni Rebus, che è il suo poliziotto, e i fan di Ian Rankin si sono preoccupati perché hanno detto: ma come, e non c'è più lui, cosa è successo, ha deciso di farlo morire, anche se solo nella sua immaginazione. Tranquilli, no, ci sarà ancora, prima o poi. E poi è molto bello perché capiamo come funziona la mente di uno scrittore, cioè lui parla di John Rebus appunto e ci spiega che cosa gli è successo come se fosse un personaggio che, insomma, ma non lo sapete, ha fatto questo e questo, lo ha fatto tutto nella testa di Ian Rankin naturalmente. Infatti lui dice: John Rebus has retired but he is still working for the police. Vabbè, meno male che ce lo dici, perché non avremmo avuto modo di saperlo, però as a civilian, quindi come un cittadino normale, ecco. Quindi pensionato in borghese, ma collabora borghese con la polizia. I know exactly what he's doing. Lo so perfettamente cosa sta facendo, come se fosse davvero una persona esistente al di fuori di lui. Poi lo dice: he's not dead, non è morto. He's still inside my head. Si rende conto a un certo punto che effettivamente non sta parlando di una persona precisa, è ancora nella mia testa. potrà tornare? There is the possibility that he can return in the future. Quindi ci tranquillizza un pochino e dice lì in un angolino della mia testa effettivamente c'è la possibilità che possa tornare in futuro. E meantime, però nel frattempo, avrebbe anche potuto dire in the meantime. Meantime è semplicemente un modo ancora più corto, più breve, più efficace. I am enjoying, e lui si sta divertendo a fare altre cose. È anche una questione proprio di città, del rapporto con la città, del modo di descrivere la città. È strano questo passaggio, però spiega molto della scrittura e del pensiero di Rankin. E dell'ossessione, direi, perché sentite che in tre frasi riesce a dire questo Edinburgh. Tante volte è la sua città e la ama moltissimo, credo, perché ci tiene proprio a dire che cosa si sta divertendo a fare, a exploring Edinburgh through the eyes of different characters. Quindi si mette nei panni, noi diciamo, no? O comunque vede attraverso gli occhi di altri personaggi questa Edinburgh che fino ad ora avevamo visto lui e soprattutto noi lettori attraverso gli occhi di John Rebus. Per il quale era quasi era solo la scena del crimine, la vedeva così? Una scena del crimine dopo l'altra. Praticamente, quindi for him it was just a crime scene and then another crime scene, e quindi era tutto molto più circoscritto. Forse insomma Ian Rankin si è reso conto che la sua amata Edinburgh lui la conosce bene, noi meno, e magari se ce ne fa vedere anche altri angoli siamo tutti più contenti. Anzi, different kind, addirittura diversi tipi della stessa città con different perspectives. Quindi proprio più di così, un atto d'amore per la città che appunto si manifesta in modi diversi a seconda di chi la guarda. Questo è vero appunto soltanto se si ha una grande ammirazione per un luogo. Different kind of Edinburgh, different perspective on Edinburgh. Andiamo tutti a Edinburgh a questo punto. E ce l'ha proprio consigliata caldamente questo Ian Rankin, che è stato intervistato dalla nostra Alessandra Tedesco. Si conclude qui anche questa puntata del nostro English 24. Vi ricordiamo l'appuntamento in edicola con la nostra rivista e il CD. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'appuntamento al prossimo English 24.